Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Perché ci sia violenza sessuale è necessario che quel gesto deprecabile, mortificante per la donna, abbia un contenuto libidinoso e che sia fatto al fine di soddisfare la libido, le pulsioni libidinose dell'imputato. Qua, in questo caso, noi per il tipo di contatto che c'è stato con la donna, con le due impiegate, abbiamo ritenuto che vi fosse il dubbio che non era un gesto libidinoso. Allora, come ho detto nella premessa fatta al giornale radio, non voglio entrare in merito a questa sentenza, al fatto di Palermo. Sentite, questo parlare era il magistrato Bruno Fasciana, che è il presidente del Consiglio giudicante, che appunto ha emesso questa sentenza nei confronti dell'ex direttore dell'Agenzia delle Entrate Palermo 1. L'oggetto della discussione però ci interessa, perché ci interessa, bisogna capire e bisogna vedere poi contrapponendolo alla realtà. Non è tanto il problema del gesto, della pacca, accusato di avere dato una pacca nel sedere, un dito fra i seni di un'altra impiegata toccandogli un bottoncino, come dice lui, per dirgli che era sbottonato, e un gesto fugace che abbia sfiorato la zona vaginale di un'altra impiegata. Casualmente questi tre gesti non sono stati attribuiti dei significati libidinosi. Quando parlare di molestie sessuali, la molestia sessuale in diritto non esiste, nel senso che c'è o la molestia o il reato di violenza sessuale, che nel caso specifico è quello che è stato contestato all'imputato. Innanzitutto non è vero, e questo è fondamentale, che le due signore hanno fatto una denuncia o una querela. Le due impiegate che hanno subito queste molestie non hanno presentato né querela né denuncia. Il processo nasce nell'anno... Ecco, fermiamoci qua, sennò rifacciamo nuovamente il radioprocesso di un processo che c'è già stato. Però vedete, quando una materia è così difficile essere descritta, non ci sono delle prove così evidenti, si entra sempre in un'area di ambiguità. E chi ne fa le spese in quest'area di ambiguità? In questo caso ne fa le spese la persona che ha subito la molestia. Giustamente il magistrato dice: noi, di fronte a un dubbio, noi tendiamo ad assolvere, meglio che sia a piede libero un colpevole piuttosto che un innocente debba pagare poi in maniera anche cara, perché è un'onta non indifferente il fatto di essere stati condannati per molestia sessuale. Qualcuno se ne può non interessare, ma non è una cosa che fa piacere, poi ci sono degli strascichi lunghi. Azzeriamo tutto, e quello che chiedo questa mattina è alle nostre ascoltatrici di darci un contributo che sia possibilmente utile a capire. Ora, che avvengano negli ambienti di lavoro degli atti di sopraffazione fino alla molestia sessuale è un dato di fatto scontato. Non vuol dire sia bene, sia male, sia giustificato o giustificabile, avviene. In che forma avviene? È mutata questa forma? È cambiata rispetto alla dichiarazione esplicita che poteva avvenire in altri tempi, il ricatto? Oppure il fatto che oggi siano rapporti molto più camerateschi, molto più liberi, molto più amichevoli e molto più informali fra colleghi e soprattutto anche fra persone gerarchicamente differenti, fa sì che si entri in un ambito di ambiguità in cui qualcuno può giocare in questa zona franca, e la pacca sulle spalle che io potrei dare o sentirmi dare da qualsiasi delle colleghe con cui lavoro assieme, che vedo veramente alla stessa stregua, allo stesso livello che gli altri colleghi, non passa nemmeno lontanamente la fantasia, può diventare veramente l'inizio di un cammino di sopraffazione che porta a che la donna possa avere paura di passarti vicino, possa sperare e pregare che tu non rimani mai solo con lei, e comincia qualcosa che assomiglia veramente a una vera e propria sopraffazione. Fino a dove arrivano le molestie che avete subito, che sapete che si subisca, o sapete che in maniera metodica e sistematica un genere di uomini affliggono ai loro colleghi sul posto di lavoro? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Hanno scoperto che non è a norma. No, qualcuno mi ha toccato il sedere. Ilaria mi ha fatto spaventare. Temevo fosse successo qualcosa di grave. Ma è successo qualcosa di grave, anzi gravissimo. Ilaria, non esageri. L'ascensore si sarà fermato di colpo. Qualcuno ha perso l'equilibrio. Per non cadere l'ha sfiorata. Un banale incidente. Incidente? È l'ottava volta in due giorni che mi fanno la mano morta. Beh, otto volte non è poi tanto morta questa mano. Direttore, guardi che per una donna essere palpeggiata non è mica uno scherzo. Mi meraviglio di lei che fa dell'umorismo su un argomento simile. Se avessi voluto fare dell'umorismo, avrei detto che qualcuno si sta divertendo alle sue spalle. Senta, fa anche sorridere quando si sente rappresentata in uno sketch, in questo caso è Camera Caffè. Ma vi assicuro, perché molte volte mi sono sentito raccontare queste cose da carissime amiche, da persone che ti sono vicine, molte volte anche da persone con cui stai assieme, può essere una moglie, una fidanzata, una persona a cui tieni molto, che in effetti in quel tal caso, in quella tale situazione, c'è una situazione molto limacciosa, ti verrebbe l'istinto, cioè vado io, vado, spacco il muso, questo accadeva quando ero molto più giovane, faccio giustizia, poi ti rendi conto che non puoi fare nulla, perché sei sempre un sistema impreciso, quella cosa è sempre molto poco dimostrabile. Nel caso di cui parlavamo, il tema era proprio questo. Era dato da una sorta di difficile equazione fatta da varie componenti, dall'intensità, la durata e il tempo e la maniera in cui viene appoggiata questa mano morta. La mano morta va classificata, ma qual è il vero peso della mano morta? Il peso specifico della mano morta, quello vorrei definire oggi. Vorrei definirlo con un'equazione matematica il più possibile certa. Quando è che è inequivocabile qualcuno ti faccia la mano morta con tutte le sue declinazioni addentellate possibili? Quando in realtà è il collega ti dà una pacca sulle spalle perché gli sei simpatica, perché ha affetto per te, perché ti vede come un simpatico collega, fine, senza porsi problemi poi di come tu sia fatto, tu sia messa e via dicendo. Vedo che l'atteggiamento maschile nei confronti di questo, atteggiamento da cui non mi voglio affrancare, anch'io probabilmente nel mio interno sono così, ma faccio molto per cercare di essere civilizzato. Dice, caro Nicoletti, negli ambienti di lavoro ci sono più zoccolone che molestie. Può anche essere, ma anche la zoccolona, ammesso che io la seguo in questo discorso, se vuole essere palpeggiata te lo dice, te lo fa capire, è qualcosa, è un reciproco accordo, perché anche la più zoccolona, se tu la palpeggi che lei non vuole, non è contenta e fai a lei una violenza. Poi lei può gestire la sua vita, il suo corpo, la sua disponibilità come meglio vuole, ma se tu gli fai schifo non la devi molestare, non la devi palpeggiare. Arianna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Lei parlava di equazione matematica. Vediamo se mi aiuta. Vediamo se mi aiuta. Definirla in intensità, che noi tradurremmo in peso, un etto, due etti, un chilo, due chili, no, e in tempo, un secondo. Per me è prossima allo zero il peso della mano morta. Quindi perché... basta che sfiora. No, studenti, al contrario, nel senso che il peso della mano morta rispetto alla, come dire, alla sensibilità che io provo come donna di, non so, di essere ferita, di sentirmi ferita, è molto basso. In realtà, infatti... A lei non dà fastidio? A lei non dà fastidio? No, perché secondo me i problemi dovrebbero essere spostati su altre, non so, pensare invece a... agli atteggiamenti così di emarginazione piuttosto che di sopraffazione negli ambienti di lavoro, Arianna, che non sono ha mai subito perché è chiaro, di fronte allo stupro di gruppo è ben poca cosa. Ma una persona che venga sistematicamente, le spiego, sottoposta a cose che in sé non hanno nessun valore di profondo cambiamento dello stato fisico e umorale, ma una persona che non vuoi, che non conosci, che sei costretta comunque a subirne l'attenzione in maniera costante, non trova che sia sgradevole in qualche maniera, possa essere evitato, vada evitato? Sicuramente, non dico che sia gradevole, è sgradevole, ma per me come donna risulta più sgradevole lo sgambetto che mi fa il mio collega maschio sul, non so, se dobbiamo fare una bella figura con il capo. Sì, ma questo potrebbe avvenire comunque, fra maschi e fra donne, potrebbe fargli anche una sua collega, non è lo specifico. Lo specifico è proprio entrare nella sfera intima di una persona, che non voglio sottostimare l'infamia sul lavoro rispetto a questo, ma questo è un comportamento arcaico, secondo me, di sopraffazione e vessazione, che ci sta benissimo se corrisposto. Se lei ma ama che il collega io. Scusi, quello che mi avrei fatto passare io, sì, cioè la sopraffazione l'ascolto. Fisica fisica, la sopraffazione fisica per me è come dire un problema secondario rispetto alla sopraffazione in ambito lavorativo, che spesso gli uomini, che quasi sempre gli uomini mettono in atto. Non so, parliamo della difficoltà delle donne di avere, non so, le stesse posizioni, gli stessi ruoli in azienda degli uomini. Non ci piove, cioè, non ci piove. Rispetto invece alla mano morta, certo, a me dà fastidio, mi è successo qualche volta, però la mia reazione, devo dirle in tutta sincerità, è stata nulla, nel senso che ho pensato che fosse meglio lasciar correre che al tortolone di turno desse meno soddisfazione non reagire piuttosto che, non so, partire con la denuncia piuttosto sì, che poi infatti io guardi, mi sono studiato un po' il problema. È chiaro che la denuncia può partire da un certo punto in poi, la denuncia deve essere circostanziata, bisogna avere i testimoni, bisogna avere altre colleghe perché dicano poi sì, lo fa anche con noi, che è sempre molto difficile, ahimè. Poi quando si arriva al tribunale si rimane sempre con la bocca amara, asciutta. Ci sono altri sistemi, suggerisce, manda una mail al collega, lo dice per favore smetti di molestarmi perché mi dai fastidio, intanto crea un precedente, una prova, gli dà un alt, oppure fai capire al collega che questa cosa non la gradisci. C'è tutta una... non voglio radicalizzarlo come fosse la cosa più grave possa accadere, però siccome è l'inizio comunque di un comportamento che poi sfocia anche quel tipo di sopraffazione, dice lei, mi piace capire la sensazione dell'ascoltatrice, non voglio forzare la mano. Lei mi dice la mano morta va bene, ma ho il sistema di gestirla, ci sono cose peggiori, si gestiscono in maniera molto più difficile, e questo lo capisco. Mario, buongiorno. Buongiorno. A parte questa ascoltatrice che ha detto che appunto possono essere tollerate, ci sono cose più gravi della mano morta, della mano che abbottona un bottone nel reggiseno, la mano sul davanti, sul di dietro, eccetera. Io queste cose qua, proprio da uomo, non le tollero veramente che vengano commesse sul luogo di lavoro, sul luogo, in qualsiasi luogo, anche di svago, in palestra, che ne so. Una donna decide, è libera di decidere se farsi palpeggiare, se farsi abbottonare il sulla camicetta, eccetera. È lei. Allora, secondo lei, vediamo se da uomo riusciamo a capirlo. Intanto, mentre donne, aspetto che ci chiamino all'800240024. Il tema è chiaro. Avete subito un'attenzione del genere? Qual è stata la vostra reazione? Cosa viene in mente di fare? Uno all'inizio pensa, ma magari sta scherzando, sono io che ci metto malizia, magari mi ha sfiorato, magari è un gesto amichevole, non ci vede niente di male. Ma quando comincia a essere ripetuta, reiterata, che c'è proprio l'agguato che vi aspetta davanti alla fotocopiatrice, vi aspetta quando siete sola, viene lì, vi abbraccia e vi sentite l'alito dentro l'orecchio, comincia a esserci qualcosa che uno un pochino capisce. Io racconto esperienze che mi sono state raccontate, ti abbraccia improvvisamente da dietro, ti abbranca, senti che ti si struscia addosso, comincia a capire, non è l'attenzione proprio di un collega sereno e rilassato. Secondo me, e diciamolo agli uomini che questo amano, non è un atteggiamento molto virile, molto maschile, perché cos'è? Un corteggiamento. Puoi corteggiare una donna facendole gli agguati. Una donna ti fa capire subito se lo gradisce. Se lo gradisce va bene, è un gioco condiviso. Ma se il gioco non è condiviso, dov'è la soddisfazione se non su un piano che comincia a essere patologico? Mario. Sì, io poi tra l'altro condannerei quella persona che invece è stata assolta. Vabbè, questo c'è un tribunale, la condannerei a una pena accessoria. La pena accessoria sarebbe quello di fargli assistere alle molestie verso la sua compagna. Vabbè, sì, però dovremmo far molestare un innocente. No, ma sì, ma questa legge del taglione non funziona. Diciamo è un modo per... Sì, però dovrebbe molestare la sua compagna che non ha fatto nessuna colpa. Infatti il magistrato saggiamente ha detto non entriamo nell'ambito penale ma nell'ambito delle sanzioni amministrative. Uno che fa così andrebbe punito, l'agenzia delle entrate in quel caso comunque sia dovrebbe tenerne atto, ormai è in pensione, perlomeno non è più dirigente. Però il datore di lavoro in quel caso, e sa una cosa del genere, avvertire un datore di lavoro, se accerta che comunque esiste questo pericolo, prendere provvedimenti. Federica, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda. La faccia così ci leviamo questa idiozia arrivata. Se domani incominciassero le donne a palpeggiare gli uomini, succederebbe niente. Magari... Non succederebbe nulla. No, la cosa è molto più. Cioè, sono andata più nel. Volevo sapere se incominciano a palpeggiare gli uomini e poi quella stessa donna viene violentata. A quel punto se l'è cercato, penso se l'è cercato, se l'è cercato. Il giudice andrebbe comunque, vabbè, ha detto Federica, ha detto l'idiozia dalla mattina, è contenta, è soddisfatta, mi mancava proprio, devo dire, in questa trasmissione volevo affrontarlo in maniera intelligente questo problema. Le ha detto una totale idiozia, detta, no, ma lo capisca Federica, ha detto una cretinata, perché una donna può palpeggiare tutti gli uomini che vuole e questo non dà diritto agli uomini di violentarla. Lei da donna dovrebbe capirlo questo, perché lei è una donna, l'uomo è più forte, è un sopraffattore di questo punto di vista. Lei può palpeggiarmi quanto vuole, a me può piacere o non piacere, ma se a me non piace ho dei mezzi fisici per impedire che lei mi palpeggi. Se io poi la violento non è una cosa bella, lo capisce questo? Ma io ne sono assolutamente d'accordo, per questo facevo la provocazione. In tutti i processi, in tutti i processi più arcaici, più terribili di stupro, la vera ragione della difesa è sempre stata questa: l'atteggiamento della donna. La donna ha provato piacere, la donna era consenziente, ha fatto degli atti che potesse in qualche maniera portare l'uomo. Se lei mi asseconda oggi nel 2016 questo atteggiamento, torniamo indietro veramente di 50 anni. Lo capisca questo: la donna può permettersi di palpeggiare se vuole l'uomo. L'uomo ha modo di dirgli smettila. L'uomo può denunciare la donna per molestia, per stalking. Esiste tutta una casistica in questo. Ma la reazione dello stupro a seguito di una donna allegra che magari ti dà una pacca sul sedere è sproporzionata. Se facciamo passare questo, vale allora il principio dei signori di colonia che hanno detto: siccome siete donne occidentali, andate in giro allegre, vestite in maniera vistosa, per noi è un diritto mettervi le mani sul culo perché voi non chiedete altro. Capisce? Scusi che l'ho detto, che ha detto un'idiozia, ma rifletta quanto è stato idiota quello che ha detto. A più tardi, a fra poco. Melog, cronache meridiane. Parliamo di palpate sul posto di lavoro. Vi leggo qualche sms. Un ascoltatore racconta una sua avventura: una volta è cascato uno scaffale addosso che l'ha travolto assieme a una collega. Per salvare la vita la collega si è buttato avanti, incautamente gli ha sfiorato il sedere, lei si è messa a strillare, a urlare. Quindi quando lui ha rialzato l'armadio sanguinante dopo averle salvato la vita, si è preso anche uno schiaffo. Dice: molte volte è anche una fobia nella maggioranza delle donne, poco importa la pressione della mano. Dice: io inconsapevolmente, e per salvarla tocca questa cosa, era talmente arrabbiata, mi ha detto uno schiaffo. Poi mi dice un altro: sei un bacchettone. Vabbè, sono anche un bacchettone, mai stato considerato un bacchettone. E un altro al contrario dice il contrario, dice: Nicoletti, proprio tu parli di mani sul culo, che con la scusa della sollevazione chissà quanti ne hai palpati, vergognati. Allora, la sollevazione, di cui conoscono la storia i miei più fedeli ascoltatori, fu un atto di arte performativa che ho fatto per qualche mese della mia vita, girando per l'Italia nelle pubbliche piazze, in cui emanavo questo principio. Secondo me le donne avevano bisogno di sentirsi donne leggere, e per sentirsi leggere avevano bisogno di un uomo che si prendesse il loro peso. Invitavo le donne a salire sul palco, io me le prendevo sulle spalle con un gesto velocissimo che avevo imparato, appreso da una danzatrice, da un maestro di judo, in cui non le toccavo affatto, anzi avevo a disposizione anche dei guanti che chiamavo deframmentatori, che mettevo tutte le volte che le persone pensavano che potevo semmai sfiorarle. Era proprio esattamente l'antitesi della palpata, perché uno non può palpare una donna di fronte a una piazza piena di centinaia di persone, soprattutto erano donne che volontariamente salivano sul palco per essere sollevate. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per le sue performance, non ero a conoscenza. È stato un momento della mia vita, poi ho dovuto smettere perché me l'ha imposto il medico per via delle mie vertebre, perché me ne ero preso talmente tanto di peso di donne che avevo la spina dorsale che rischiava, e ho smesso, ma è stato un bel momento. Immagino. Senta, io sono assolutamente d'accordo con lei. La palpazione, come la vogliamo chiamare, è inaccettabile, qualunque sia il tipo. È chiaro di che una coltellata è peggio, però perché vogliamo sempre sminuire il valore di lesione nella psiche di una persona quando devi subire qualcosa che non vuoi? Questo lo dico. È assolutamente insopportabile e non va sopportato. Per questo io dico, sicuramente non ci sono magari presupposti penali, perché non si tratta di reato sanzionabile dalla legge, ma va sanzionato assolutamente. Qual è il sistema, secondo Elisabetta? Che poi quando uno dice praticamente, che fa? Lo dice alle colleghe. Le colleghe tutte, anche con me l'ha fatto. Dice: lo verresti a dire al capo? Nessuno lo dice più. Se vai dal capo trovi qualcuno che magari lo sapeva, ma c'è una sorta di complicità, ma via, dai, è fatto così, lasciatelo stare, lo sapete che è fatto così, c'è sempre qualcuno fatto così, o sbaglio? Guardi, le dico in verità, io credo che ci sia un cambiamento nella società rispetto a quando io ero ragazzina, dove le palpate erano proprio quotidiane, in autobus, in metro, ovunque, adesso c'è un'attenzione maggiore. Però è vero, lo sai, non ci sono più, i palpatori di autobus non ci sono più. È vero, era il dramma vero. Delle nostre zie, tornavano sempre rosse, affocate. Nell'autobus io non ero palpa come nessuno. Le sue zie, però non ho mai sopportato neanche da ragazzina, neanche negli anni 70. Quelli che si attaccavano, diciamo, al corrimano e si appoggiavano, vedevi un autobus vuoto, ricordo questa scena, una donna poveretta piena di borse, di bambini, di spese in piedi, e dietro uno accasciato su di lei con la faccia da ebete, e capivi che ero piccolo, ma capivo che c'era qualcosa che non andava. E questa cosa qui io la rifiutavo anche allora, anche se ero giovane, scendevo dall'autobus nel migliore dei casi, altrimenti mi rivoltavo. Sono diminuiti oggi, però sono diminuiti queste cose. Molto diminuiti, però io voglio sottolineare questo fatto, che ci sono diverse aree geografiche in cui le donne possono reagire o non possono reagire. Mi spieghi, mi spieghi. A me dispiace dirlo, però sicuramente in zone del sud c'è una mentalità ancora molto maschilista, per cui la donna che reagisce viene trattata male. Guarda, io le porto un esempio di un'amica mia che ebbe anche una questione legale, a città era Vicenza, lo dico, denunciò il suo capo. Alla fine il tribunale dona a sostenerla, tutte le sue colleghe, le sindacaliste, poi quando attualmente si va in tribunale fecero tutte retromarcia. Venne fuori che era un atteggiamento paterno che aveva malinterpretato, e le parlo del nord, non è che le parlo del sud. No, ma per carità, non voglio fare di tutto un'erba un fascio, è chiaro che purtroppo nei tribunali riesce fuori questo atteggiamento di scusante, perché l'uomo è uomo e la donna in fondo che cosa ti ho fatto? Questa è la verità, non ne staremo parlando altrimenti. Però è vero che è un argomento che ancora ha la sua vivacità, perché quando poi diventa notizia sui giornali si possono sbizzarrire i commentatori, si capisce che è ancora qualcosa che non è stato risolto. Rosy, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, ascoltavo appunto l'ultima ascoltatrice su Nord e Sud. Beh, la mia esperienza è stata un'esperienza spiacevole, vabbè che le palpate le ho sempre subite da ragazzina quando utilizzavo i mezzi per raggiungere scuola, oppure anche nei locali. D'altronde questo è, tra virgolette, quando si è una bella ragazza, magari sarà bella. Però non voglio fare differenze, però qua parliamo di un ambiente di lavoro in cui sono persone riconoscibili. Anche, ecco, quindi sono arrivata all'ambiente di lavoro, io adesso ho 45 anni, e mi è capitato in un'azienda del nord che comunque non erano i colleghi di lavoro, ma ho subito delle pressioni dal capo. E come accade? Mi spieghi il contesto e descriva come accade questa cosa, se no parliamo di cose astratte. Vuoi sapere l'iter per cui si arriva a questa cosa qua? Beh, è arrivata a questa cosa qui perché comunque ha iniziato con le palpate, quindi... E come avviene la palpata? Scusi, casualmente, volutamente? La palpata magari sei lì che stai trattando un contratto importante con le clienti, ti avvicini e chiedi un incontro, sei seduta di fronte a lui, magari lui inizia a dire: guarda, non vedo bene, puoi metterti vicino, mi siedi vicino a lui, ti siedi vicino a lui, e inizia con la mano morta a allungare sotto la scrivania, magari hai la longhette, ti solleva la gonna e inizia a mettere le mani. Beh, quella non è una palpata, cioè è una molestia vera e propria. È una molestia vera la mano propria, si infila sotto la gonna, è molto più di una palpata, non c'è manco l'equivoco di dire: oh scusa, tortato, certo, per sbaglio. No, amico, ma scusami, hai delle belle calze. Dico: guarda, allora è forse il caso che io mi metta di nuovo davanti a te, così almeno discutiamo in modo e non siamo distratti niente, perché comunque devi, soprattutto quando hai bisogno di lavorare e hai bisogno anche, tra virgolette, quando pensi e devi raggiungere un obiettivo, magari tante cose lasci correre. Non fosse stato il suo capo, fosse stato un suo pari grado, l'avrebbe accecato con uno schiaffo, penso. Decisamente, ma io l'ho fatto poi col mio capo e mi sono licenziata, quindi, perché poi le pressioni erano, perché poi si era creato un meccanismo contorto sulla mia psiche. Poi ovviamente lei deve sapere che io lavoravo anche a progetti, a delle provvigioni, quando chiudevo dei contratti addirittura mi minacciava, per cui poi scusi, è importante, perché ho davanti proprio un esempio. Lei dice: una prima volta uno mi mette una mano sotto e gli faccio capire che non è gradito. come avviene poi la seconda volta? Perché un uomo può aver fatto un avance idiota, ma poi dice non gradisce, fine. Come mai continua? Come continua? No, ma poi c'è stato un confronto, dire guarda, non sono interessato, forse magari posso piacerti, ma non mi interessa. Sono felice, ho una bella situazione, quindi non mi interessa. Quindi, e lui cosa ha detto? Visto che c'è un rapporto chiaro, siamo tra adulti, quindi non siamo più i ragazzini. Quindi no, non mi interessa, quindi... Poi magari ricapita di nuovo, sei magari nella sala mensa, stai per prendere un caffè, ti cade l'acqua, io mi abbasso e senti lui la mano. Ecco, quindi lì di nuovo ad appoggiarti, a strusciarti. Ma è fatto come, come potrebbe fare un prete guardando un'altra parte, facendo finta di niente, o proprio come se fosse un atto di seduzione nella sua testa? No, un atto di seduzione, pur sapendo la mia volontà, il mio desiderio di non poi capisce che allora c'è una percezione sbagliata proprio della donna. Penso che le donne, sia come poteva accadere nelle leggende auree di qualche secolo fa, sì, vis grata puelle, la donna dice sempre di no, dice di no, ma poi alla fine vuole sì. Questo pensa probabilmente. No, io ho detto di no e mi sono licenziata, me ne sono andata via, perché ero disgustata di questi atteggiamenti e soprattutto di subire, anche perché poi ho cercato di far intervenire altre mie colleghe, ma mi allaccio al suo discorso, quando era di mezzo una denuncia tutti si sono tirati indietro. Per cui sempre di più mi sono sentita sola, molto sola, e mi sono sentita fragile, pur avendo un carattere forte, perché purtroppo noi donne, visto che siamo il sesso debole, continuiamo a dire che l'emancipazione della donna sta prendendo sempre più piede, sempre cammina a pari passo ai livelli degli uomini, ma non è vero, non è... Il sesso debole rimarrete sempre, perché l'uomo vi sopraffà come forza fisica e come stazza fisica. Purtroppo quello rimane sempre e rimarrà sempre, a meno che sia un cambiamento fisiologico nelle generazioni future radicale. Quindi c'è sempre una posizione di fronte alla violenza fisica di inferiorità. Questo è logico. Ma anche non soltanto fisica, ma anche psichica. Sì, perché questo comunque... risponde anche a chi mi scrive, ma perché non gli danno uno schiaffo subito? Dai uno schiaffo a una persona a cui dipende il tuo lavoro, quindi la tua sopravvivenza, la tua felicità. Prova. Poi gli ambiti sono sempre molto ambigui. Rosy ha parlato in un fatto molto esplicito, molte volte è molto più frastagliato, in cui c'è sempre l'idea, dice, ma mi starò sbagliando? Forse non sta, magari sta soltanto dandomi un gesto di affettuosità. Artemisia, buongiorno. Buongiorno, volevo dire solo, per non prendere troppo tempo, che bisogna creare qualche legge che non permette l'atto di cosiddetta molestia sessuale, ma chiamare questo l'atto di bullismo, l'atto di molestia, come molestano i piccoli bambini, le persone quando non c'è nessuno, molestano quelle che sono più deboli, perché altrimenti non, le persone non possono difendersi mai. E questo per me è l'atto di ladro che entra nel territorio di altra persona e fa esercitare Artemisia, le leggi sono il decreto legislativo 198/2006, quello detto il codice delle pari opportunità, c'è articolo 26, comma 1 e 2, che specifica chiaramente che le molestie sono quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse a, appunto, discriminazioni, atti che forzano la volontà di una persona. Quindi è molto vasto, c'è la legge. La difficoltà poi è definirlo, è trovare persone che lo testimoniano, è provarlo. Questo è il fatto. Fermiamoci un istante, a tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento Melog, Cronache Meridiane. Continuano i miei colleghi maschi a ripetere sempre la stessa cosa. Una volta una mia collega mi dette una palpatina sul sedere. Cosa avrei dovuto fare? Denunciarla? Se lei ci stava provando, fosse stato il contrario, putiferio. Non vorrei nemmeno perdere più tempo a specificare che non è esattamente la stessa cosa. Se non si riesce a capire, non ho ammetto il mio limite, non ho strumenti dialettici sufficienti a far capire a un uomo che non è esattamente la stessa cosa una collega che ti dà una palpatina sul sedere e tu che la dai a lei se lei non è d'accordo. Non lo riesco a spiegare, mi manca la facoltà di farlo. Mi dice invece un'altra ascoltatrice qualcosa di interessante, nuovo rispetto a questa fattispecie vecchissima. Anche messaggini in chat dopo il lavoro, pieni di volgarità, in ogni posto di lavoro. E devi sopportare solo perché hai 27 anni e loro sono stupidi, cinquantenni, frustrati. È vero, esiste una zona liminare che può essere un additivo, un incentivo o può essere il preludio della molestia, della palpata. È l'attenzione sessuale con i messaggini, con le chat, con i disegnini, con le allusioni e via dicendo. Preparano il terreno. Ha ragione, sono cinquantenni frustrati. Barbara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Racconti la sua storia. Allora, io volevo raccontare che tempo fa ho lavorato in un posto come impiegata e avevo un contratto a tempo determinato e il titolare, che non era un cinquantenne frustrato, ma penso almeno una settantina d'anni ce li avrà avuti sicuramente. Un prostatico settantenne. Esatto. Agli ultimi fuochi. Con la pancia e quant'altro, mi chiese proprio esplicitamente di fargli un... una prestazione. È una prestazione per avere poi rinnovato il contratto a tempo indeterminato, facendomi anche notare come la ragazza che era lì aveva ottenuto, diciamo, un incarico. Presente la ragazza? Presente la ragazza? No, lei non era presente quando l'ha detto, però cioè, la mattina ogni tanto loro andavano via, c'era una casetta lì di fronte. E, insomma, certo, era talmente sicuro perché sì, lei sì. Poteva pensare, glielo farei pure il lavoretto, però dopo alla prossima gli racconta che gliel'ho fatto io. Io avrei omesso, no, fossi io stato il settantenne lubrico questo particolare, quindi era proprio... Ma ci sono anche degli esaltati, poi ne posso citare anche altre, sì, di situazioni più... Questa perché è proprio eclatante, tant'è che quando l'ho raccontato a casa mio fratello siamo andati dai carabinieri, ma loro ci hanno detto che tanto che dovevamo fare, insomma, era meglio non denunciare, il solito... Anche perché era soltanto una richiesta, poi era parola sua contro la sua, che poteva fare? Sì, no. Poi il metodo era quello, questo probabilmente negli anni precedenti applicava questo metodo. Sì, no, l'ha fatto con poi mi è stato raccontato, adesso non ricordo, insomma, con donne che avevano poi necessità, quindi... Poi posso dire una cosa, adesso che io ricordo, non faccio nomi, anche se sarà intuibile, in una grossa azienda ho lavorato in passato, c'erano dei famosi illustri dirigenti che hanno anche fatto la storia probabilmente alla radio televisione italiana, che si sapeva. Io mi ricordo ancora, si diceva alle colleghe, dicevano i colleghi più anziani, se vai nell'ufficio di quello, sta attento, ti ci prova, ti salta addosso, che lo fa con tutti. Nonostante questo, continuano a fare le loro carriere, avere la loro bella visibilità. Si sapeva che nell'ufficio di quel tal dirigente, illuminato nome nella storia della radio televisione italiana, se entrava una donna gli saltava addosso. Tutti lo sapevano e tutti lo subivano, era quasi una facezia, ma non credo sarà stata la stessa cosa per le persone che poi si trovavano a dover gestire questa cosa. Angela, buongiorno. Buongiorno. Sì. No, il mio caso è diverso, mi è scappato da ridere perché io sono nel mio 88esimo anno. E la molestano? No, sto parlando di quando avevo 18 anni, che ero a Milano a studiare, no? Sì. Tram stracolmi, mano morta. Se tu reagivi passavi dalla parte del torpolo. Io abbassavo la mano e davo di quei pizzicotti che mi restava la pelle sotto. Quindi, con lei aveva 18 anni, quindi parliamo di 70 anni fa, quindi diciamo appena finita la guerra, il primo dopoguerra. Sì. Quindi mi meraviglio che ancora oggi sia, non è cambiato niente, insomma. Dicono sei matta, come accade. No, se tu dici, ma quello lì cosa mago, ti passavi per scema, no? Quindi io non facevo una piega e le guardie mi restava sotto le unghie la pelle della mano di quel cretino che toccava. Questo però... Lo sa che oggi è una cosa che accade abbastanza meno sugli autobus? Sa che gli autobus oggi sono frequentati da tanta gente, hanno tutti fretta. O se uno ti mette una mano addosso dell'autobus, devi stare attento al portafogli. È più probabile che ti voglia borseggiare, che ti voglia palpeggiare. E poi anche questo tipo di aggressività maschile si riversa in altri settori e in altri campi, meno in quello appunto della palpata in autobus. Grazie Angela. Marianna, buongiorno. Oh, buongiorno Nicoletti, grazie di avermi richiamato. E niente, volevo fare una piccola riflessione. che voglio dire, un uomo non deve, non uso volutamente il condizionale, non, quindi non deve assertire. Cioè, diciamo, la regola essenziale, senza la quale è inutile stare a parlare, che le mani si tengono a posto. Non esiste che un uomo palpi una donna. Non deve allungare le mani sulle donne, in assenza del consenso. A meno che la donna ti dia il consenso, è un gioco divertente, reciproco, che può avvenire anche nel mondo del lavoro. Però è la persona, diciamo, il limite viene stabilito insieme volta per volta. Sì, mi dai una palpata nel sedere, ma non mi metti le mani più di tanto. Mi faccio palpare sul posto del lavoro, ma non significa che vogliamo diventare amanti. Uno può anche stabilire le regole, che può divertire anche la donna questo, non dico che non sia divertente. Diverte la sopraffazione. Certo, quindi appunto se non c'è consenso non si deve, non si fa. E poi però la cosa... Ecco, ma lei che parla, ha avuto diciamo esperienze del genere? No, esperienze diciamo così, sì, da ragazza, si figuri, insomma, io ho 65 anni e andando in autobus per andare a scuola. E però vedo che tutte associate la palpata ancora all'autobus, mi rendo conto che esiste ancora un'area poco dicibile. No, ma le dirò, sul posto di lavoro, io ho fatto l'insegnante e mi ricordo che qualche volta ho avuto delle avance verbali in quel caso, no? E che mi hanno messo molto in imbarazzo. Quindi delle avance non dai miei. Ma l'avance verbale può essere anche un corteggiamento, però uno può fermarla. Non lo so, perché voglio dire, io ero poi giovane, quindi insomma mi è capitato di insegnare scuole serali con persone che potevano essere... Ma l'avance verbale, bisogna anche, sennò veramente uno passa per bacchettone. Un uomo ti fa un complimento, te lo può fare anche in maniera un po' audace e finisce lì. Non la considero. Un uomo che reiteratamente dice che bella, quanto mi piace, quanto m'attizzi, e cosa c'è lì, cosa c'è là, comincia a essere una molestia. Bisogna anche capire, bisogna avere l'elasticità di capire, ma se c'è buona fede si capisce subito. Se uno vuole poi disquisire e diventa un fatto ideologico, chiaramente possiamo discutere fino a domani. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo dire una cosa alle ascoltatrici, che secondo me nessuno ha diritto di mettere le mani addosso. E su questo a siamo altro. I veri uomini sono d'accordo su questo, onestamente. Ed esistono una tecnica. E me la dica, ci racconti un po' la tecnica. Si chiama Krav Maga, che è una... Vabbè, è l'autodifesa delle truppe speciali israeliane. È fatta per uccidere, però. Sì, però insegnano le donne come colpire nelle parti basse un uomo e... Secondo me se uno prende una botta lì, la seconda volta ci pensa due volte prima di mettere le mani addosso. Quindi secondo lei la soluzione è colpire alle palle subito? Così Ma come i bulli, vi parlo dei bulli di scuola. Quando uno cerca di mettere le mani addosso, che cercano il più debole, quando uno reagisce poi la seconda volta ci pensa. Io devo dire che ho delle amiche che insegnano arti marziali di vario tipo e mi dicono che non è tanto il fatto che tu sappia far del male a una persona, ma il fatto che tu abbia più sicurezza. Rispetti un'area, non fai avvicinare una persona più di tanto a te. Quando un uomo già entra nei 20-30 centimetri dal tuo corpo e non lo accetti, già sei in zona di pericolo. Perché una persona normalmente non si avvicina più di tanto, già è un'area di pericolo. Quando c'è una persona che ne senti il fiato, non dovrebbe accadere questo, quindi dovresti subito sottrarti. Sulla reazione fisica, anche qui deve essere proporzionata all'attacco, perché se lei frantuma un testicolo a un uomo sul posto di lavoro e poi non riesce a dimostrare questo che le ha dato una palpatina, passa i guai. Bisogna stare un po' attenti nel saperle dosare queste cose. Stefano, buongiorno. Salve, telefonavo in merito alle molestie che subiscono gli uomini dalle donne. Credo che per uniformarle, forse per capire quello che può essere la molestia per un uomo, è come se uno si trovasse molestato da un omosessuale e sei etero. Sì, forse però è un po' diverso, se permette, è un po' diverso, a parte che secondo me può accadere se tu sei un ragazzo giovane e una persona ti fa delle attenzioni, un altro uomo, ti trovi in imbarazzo, in questo caso sì, ma fra uomini alla stessa parità di stazza fisica e di età più o meno non è la stessa cosa, perché un uomo ha strumenti molto precisi per far capire a un altro uomo che non gli va, che gli dia la palpata nel sedere. La donna è un po' diverso. Dica molestato da una persona che ha in mano anche la tua serenità, il tuo posto di lavoro, allora forse possiamo anche avvicinarci a questo, ma comunque rimane sempre una posizione privilegiata quella dell'uomo di fronte a certe situazioni. Alla prossima.